Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche e soprattutto di Monte dei Paschi, tanto per cambiare viene da dire, ma oggi il Monte ha deliberato l'aumento di capitale da 5 miliardi di euro, deve essere chiusa entro fine anno, come gli ha detto la BCE, che ha detto di no a qualunque proroga. Il prezzo massimo dell'aumento di capitale è fissato in 24,9 euro per azione, mentre il prezzo minimo tecnico, vabbè, è fissato a 1 euro. Il 35% dell'aumento di capitale sarà destinato al pubblico indistinto in Italia, di cui almeno il 30% in prelazione ai soci, mentre il 65% dell'aumento di capitale sarà riservato al collocamento presso gli i cosiddetti investitori istituzionali, quindi professionisti, non risparmiatori. Tra l'altro l'ammontare dell'aumento verrà determinato una volta concluso l'esercizio di conversione dei bond, i famosi 2 miliardi di obbligazioni strutturate. Una volta convertite si capirà quanto manca per arrivare ai 5 miliardi, per dirle in maniera semplice. E anche qui, ricordiamolo sempre, questo piano serve perché è stato chiesto alla Banca Centrale Europea di aumentare il patrimonio vista la svalutazione dei crediti deteriorati, quindi dei non performing loans. Le sofferenze bancarie vanno svalutate ulteriormente, quindi questa svalutazione porta a un abbassamento del patrimonio del Monte dei Paschi di Siena, e la Banca Centrale Europea ha detto devi aumentare il capitale, cioè aumentare il patrimonio. Da lì i problemi recentissimi del Monte dei Paschi. Come vanno i titoli in borsa, visto che ne stiamo parlando? Allora, per quello che riguarda i titoli bancari, segnaliamo che in realtà di nuovo l'attenzione è molto forte sul Banco Popolare, più 9,77, e la Pop di Milano. Oggi, dopo i realizzi di ieri, forte di nuovo Unicredit, più 6,16%, e anche UbiBanca, più 5,13%. Mentre Monte dei Paschi guadagna il 2,70%, Intesa il 3,20%, Mediobanca il 3,20%, BPER il 3,30%. Forte anche Telecom Italia oggi, il 3,5%, e qui ci porta inesorabilmente al ragionamento su Mediaset. Allora, Mediaset perde l'1% oggi. Il presidente Telecom Italia Recchi ha negato che vi sia alcun coinvolgimento nella vicenda Vivendi Mediaset con Telecom Italia, però il mercato su cosa ragiona? Vivendi Bolloré è già primo azionista di Telecom Italia con il 24%. L'operazione su Mediaset da tutti è stata vista dal punto di vista industriale come poi un'operazione propedeutica, diciamo così, a un'eventuale sinergia con Telecom Italia, e quindi chi ha la rete Telecom e chi ha i contenuti Mediaset. Venendo a Mediaset, visto che ne stiamo parlando, al di là del titolo che appunto perde l'1%, oggi cerchiamo di capire intanto che posizione possa prendere il governo, perché molti fanno notare che non è una società strategica. Per società strategiche si intendono i settori dell'energia in primo luogo, quindi Eni, ma anche Terna, Snam. Non abbiamo ritenuto come paese che Telecom Italia, ma penso anche a Wind, penso anche alla vecchia Omnitel, cioè che le telecomunicazioni fossero settori strategici. C'è chi dice no, attenzione, lo sono, perché trasmettono dati anche sensibili, hanno l'archivio dei numeri telefonici, insomma elementi sensibili anche per la sicurezza interna. Però noi negli anni scorsi abbiamo appunto Telecom a maggioranza relativa dei francesi, abbiamo Wind, pasta in mano straniera, Omnitel, ricorderete cosa capitò con l'operazione di scalata poi su Telecom. Per cui è difficile, a mio avviso, sostenere che un gruppo privato, che per quanto importantissimo come Mediaset, che si occupa di televisione, di media, di raccolta pubblicitaria, sia strategico più di Telecom o di altri operatori. Comunque di questo parleremo per quello che riguarda la la guerra in corso, fermo restando che la Procura di Milano ha aperto un'indagine, per che cosa? Qui va chiarita. All'origine, vi ricordate che lo scorso aprile vi fu un accordo tra Mediaset e Vivendi per cedere Mediaset Premium e uno scambio azionario del 3%. Poi Vivendi a giugno rompe l'accordo, il titolo crolla, o meglio perde parecchio valore, non crolla ma perde molto. Ecco, l'ipotesi è che la rottura dell'accordo, o meglio l'accusa che fa Fininvest, è che la rottura dell'accordo fosse funzionale poi andare a rastrellare il titolo sul mercato a un prezzo più basso. Qui bisognerebbe però capire quanto le ha comprate Bolloré, a quanto l'ha comprato Bolloré il suo 20%, perché il 3% l'ha pagato probabilmente poco. Da quello che varie fonti dicono, in realtà la parte, soprattutto la parte finale per arrivare al 20%, l'ha pagata anche più cara. Comunque, sull'altro fronte c'è il ruolo della Fininvest. La Fininvest è salita al 38,5%, quasi 40%. Sembrerebbe che vi fosse un'opzione, una possibilità di salire senza lanciare un'OPA di un altro 10% attraverso strumenti di cui poi parleremo, che congelerebbero, sterilizzerebbero comunque i diritti e permetterebbero a Mediaset di arrivare vicino al 50%, una quota quindi rilevante, senza lanciare un'OPA. Questo perché lo dico? Perché molti a questo punto individuano come un accordo l'unica strada possibile, perché comunque hai un socio al 20% che siede nel consiglio di amministrazione e che diciamo può non rompere le scatole, ma può comunque esercitare il suo peso, essendo secondo azionista di fatto ormai in Mediaset, e volendo per sé almeno un quinto delle seggiole del consiglio di amministrazione. Quindi alla fine molti propendono per l'idea che si debba arrivare a un accordo tra Berlusconi e quello che era considerato l'epigono di Berlusconi in Francia, Bolloré. Quindi la storia è anche interessante dal punto di vista così personale. Bolloré è sempre stato considerato un Berlusconi francese, molto più di Tapie da questo punto di vista, per la sua spregiudicatezza, per l'aver creato un impero dei media e quant'altro. Adesso i due primi amici, perché ad aprile si va appunto all'accordo su Premium, adesso sono in questo momento quantomeno non amici, verrebbe da dire anche nemici. E di questo parleremo appunto anche dei non performing loans, perché oggi c'è un rapporto di PricewaterhouseCoopers sul mercato italiano dei crediti deteriorati, quello che sta zavorrando diciamo il sistema bancario italiano e nello specifico anche il Monte dei Paschi, che deve cederne praticamente 27,6 miliardi di crediti inesigibili. Li andrà a cartolarizzare, vedremo come. Unicredit ha già annunciato che alcuni li cartolarizza, per cui il tema è molto molto delicato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Gli indici, più 1,90% Milano. Per quello che riguarda invece gli indici del resto d'Europa, più 1,20 Parigi, più 1,12 Francoforte, più 0,70 Londra, più 0,80 il Dow Jones. Euro in indebolimento dopo la mossa della Fed, parleremo chiaramente anche della mossa della Federal Reserve di ieri sera, la Yellen che dice resterò tutto il mio mandato, conferma un'economia americana che cresce bene e aumenta i tassi di interesse. Euro 1,04 nei confronti del dollaro. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, chi già scrive su Mediaset perché dice che non è strategica, è strategica per la politica, per Forza Italia, per il governo, perché allora io parlavo della strategicità dal punto di vista dell'economia, di quelli che si chiamano settori strategici in cui non è gradito l'ingresso di capitali stranieri, che sono appunto Eni, capitali stranieri di controllo sto dicendo, e non, mi raccomando, i fondi ci sono e come se ci sono, però in cui si ritiene che il controllo debba essere nazionale, quindi la quota di controllo maggioritaria debba essere nazionale. Mi riferisco ad Eni, a Snam, a Terna e anche, ci mancherebbe, al gruppo Leonardo Finmeccanica, perché produce oltre che per la parte civile anche e soprattutto per la parte militare sistemi in cui c'è un diritto anche alla riservatezza, alla segretezza e anche informazioni di carattere strategico per un paese, per cui lì sì. Che poi Mediaset abbia un peso politico, perché trasmettendo anche notizie, contenuti e essendo e facendo capo al leader di uno dei partiti dell'opposizione come Forza Italia, ci arrivo anche da solo. Io stavo ragionando in chiave economica, perché se tu ti devi muovere su questo principio non puoi dire ma siccome politicamente è un peso, no, non funziona così. Allora andiamo avanti, visto che parlavamo di queste operazioni Fox oggi, c'è stato l'accordo tra 21st Century Fox e Sky, la catena televisiva con base in Gran Bretagna viene acquisita dal colosso televisivo americano per 11,7 miliardi di sterline, e in questo modo Rupert Murdoch consolida il suo controllo su Sky. Lui ne aveva già il 40%, ben inteso, però adesso, visto che lui controlla, aumenta il suo controllo, via libera degli azionisti al takeover, appunto, viene pagata quasi 15 miliardi di dollari. E questo è, se vogliamo ragionare sempre in chiave economica e in chiave industriale, e questo quello è lo scenario cui guarda comunque Bolloré, perché lui vede da un lato l'operazione Time Warner, AT&T Time Warner, cioè telefonia che si unisce a chi ha i contenuti, dall'altro il consolidamento e il rafforzamento di Murdoch, che se vogliamo è il vero sfidante nel continente europeo del gruppo Vivendi, fermo restando che le proporzioni sono ancora molto diverse tra i due, ma ecco perché ragionano gli analisti, diventa interessante per Vivendi acquisire o avere una partecipazione importante in un gruppo come Mediaset, che ha pure la controllata spagnola che va benissimo, e quindi gli permetterebbe di creare, possiamo chiamarlo così, un polo latino, cioè Francia, Spagna, Italia, almeno in questo senso, da opporre al potere, in questo momento chiaro, certo, di Sky, e anche a operazioni Netflix, spaventa molti, secondo alcuni ha torto o ragione. Il rafforzamento, vedremo come andrà a finire l'operazione AT&T Time Warner, per cui insomma questo è lo scenario del mondo attorno. Se poi vogliamo guardare solo la politica nostra e agli equilibri della maggioranza, ascoltate un altro programma. Allora, per quello che riguarda la vicenda, io sto leggendo un'agenzia assieme a voi. Verizon starebbe considerando di tirarsi indietro dall'accordo per acquistare Yahoo dopo le ultime rilevazioni sull'ennesimo attacco hacker a oltre 1 miliardo di account personali. Allora, che cosa è successo? Praticamente c'è un'intesa già siglata da Verizon, che è un colosso americano delle telecomunicazioni, il colosso americano delle telecomunicazioni, e Yahoo, per un'intesa per 4,8 miliardi di dollari. Nel frattempo abbiamo saputo che Yahoo ha denunciato la violazione informatica da parte degli hacker che hanno rubato oltre 1 miliardo di account personali. Tra le vittime ci sono anche oltre 150.000 dipendenti dell'amministrazione americana, tra cui impiegati della Casa Bianca, militari, agenti della CIA, della National Security Agency, uomini dell'FBI. E questi dati sono finiti nelle mani dei cybercriminali. Da quello che si capisce dalle accuse, si tratterebbe appunto di cybercriminali che avrebbero acquisito sia le generalità che le password, che i numeri di telefono, gli indirizzi mail, tutti i dati salvati nel backup. Un disastro, adesso non pensavo fosse così facile hackerare profili della CIA, al di là dei film che abbiamo visto, ma a questo punto l'intelligence americana è in allarme, potrebbero essere definiti in mano a servizi segreti di paesi stranieri. Ma va? Beh, non penso che se ne sia comprata la Massaia di Voghera, con tutto l'affetto per la Massaia di Voghera, che forse non esiste neanche più come categoria sociologica, e addirittura Verizon sta pensando di fare un passo indietro su questo, sull'acquisto di Yahoo. Andiamo rapidi su altre notizie. Sì, l'euro conferma che adesso è 1,03 dopo l'apertura di New York, e comunque è ai minimi da 14 anni. Dopo appunto l'aumento dei tassi di un quarto di punto deciso ieri, è il primo aumento del 2016, il secondo dal 2006, ma la Fed ha annunciato già 3 aumenti dei tassi nel 2017. Li ha lasciati invariati invece la Bank of England i tassi, allo 0,25%. Ancora due notizie sul fronte europeo: l'indice manifatturiero dell'area euro, l'indice PMI, sale ai massimi da oltre 5 anni, trainato soprattutto dalla Germania come indicatore, è salito appunto a 54,9 punti, il livello più alto dall'aprile del 2011. Andiamo all'Italia, non è una buona notizia per i neopensionati, perché chi è appena diventato pensionato può contare su assegni meno pesanti rispetto a chi lo è stato, cioè chi è già pensionato. Lo rivela l'Istat nel rapporto sulle condizioni di vita dei pensionati. Nel 2015 i redditi dei nuovi pensionati sono mediamente inferiori a quelli dei cessati, di quasi 1.000 euro, 15.197 euro contro i 16.000 euro. Ma anche dei pensionati sopravviventi, 17.400 euro, cioè di chi ha percepito trattamenti sia nel 2014 che nel 2015. E poi il dato, insomma, che continuiamo a commentare e a criticare: la percentuale delle pensioni di invalidità al sud è doppia rispetto a quella del nord, che non si giustifica in nessun modo, anche perché quando tu hai l'attività produttiva più forte nel nord del paese, tutto puoi immaginare, ma non che le pensioni per invalidità civile siano il doppio di quelle del nord. Mentre le pensioni di vecchiaia sono il 60% di quelle al nord e solo il 40% di quelle al sud. Le pensioni di invalidità nel mezzogiorno sono l'8% del totale contro il 3,8% nel nord. Se andiamo sull'invalidità civile, questa è l'invalidità ordinaria, siamo al 20% al sud contro il 10% del nord. Poi ci sono altre notizie che arrivano dal rapporto salute di cittadinanza attiva, ne parleremo domani nella nostra classifica, perché il Servizio Sanitario Nazionale viene definito in ritirata, 2 anni per rimuovere una protesi, però non anticipiamo la classifica di domani, restiamo domani. Invece una buona notizia riguarda, anzi due buone notizie riguardano una Telespazio, che è società controllata da Leonardo, quindi Leonardo Finmeccanica, per tramite di Space Opal, che è una joint venture con la tedesca DLR. Comunque si è aggiudicata Telespazio la gara, che vale fino a 1,5 miliardi di euro, per gestire il programma europeo di navigazione e localizzazione satellitare Galileo, e oggi inizia ufficialmente la sperimentazione del servizio. Thales Alenia Space, joint venture tra Leonardo e Thales, ha siglato contratti per circa 180 milioni di euro. Il primo contratto vedrà Space Opal responsabile per 10 anni della gestione dell'intero sistema Galileo, delle sue prestazioni, in particolare per quanto riguarda le operazioni di controllo e manutenzione del sistema, sicurezza e gestione del servizio, un ruolo che verrà svolto in Italia al Centro Spaziale Piero Fanti di Telespazio, che è al Fucino. E l'altra buona notizia, invece, in realtà sono altre due, riguarda da un lato Amazon, che a Proda Vercelli realizzerà un nuovo polo che sarà il cuore della sua rete di distribuzione di consegne, diciamo, acquisti online e consegne a domicilio per tutto l'Italia nord-occidentale. L'investimento nel nuovo impianto di Amazon, che sarà di 100.000 metri quadrati e di 65 milioni di euro, e porterà oltre 600 nuovi posti di lavoro a 3 anni dall'apertura. Con Vercelli Amazon a quel punto avrà tre centri di distribuzione, dopo quello operativo già adesso a Castel San Giovanni Piacenza e a Passo Corese in provincia di Rieti. E l'altra notizia riguarda il nuovo pendolino Italo, realizzato dall'Alstom, la francese, per NTV, quindi Italo, presentato a Savigliano in provincia di Cuneo, dove viene progettato e costruito nella fabbrica dall'Alstom, dove si facevano i pendolini già negli anni scorsi. I 12 pendolini andranno ad accrescere la flotta di Italo, portando i treni dagli attuali 25 a un totale di 37, tutti prodotti dall'Alstom. Entreranno in funzione tra fine dicembre 2017 e marzo 2018, e sì, non sono identici agli attuali Italo, che sono degli AGV, per cui, e che hanno stabilito, lo ricordo, il 3 aprile 2007 il record mondiale di velocità su rotaia, 574,8 km all'ora. Gli altri siti dell'Alstom coinvolti nella produzione del pendolino Italo, che ripeto è un'altra formulazione rispetto all'AGV, gli AGV hanno, adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma hanno la caratteristica di essere tutti a trazione, non c'è il locomotore come una volta che trascina i vagoni. Ma dicevo, i pendolino saranno prodotti oltre che a Savigliano anche a Sesto San Giovanni, nei siti Alstom di Sesto San Giovanni e Bologna, e il deposito di Nola in provincia di Napoli. E annuncia il numero uno di NTV, direttore generale Giambattista La Rocca, 160 nuove assunzioni, di cui 45 macchinisti per i nuovi pendolini, e 40 assunzioni a Nola per la manutenzione. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Poi parleremo delle popolari e le istanze della Banca Popolare di Sondrio, che è intervenuta sul Consiglio di Stato. Comunque, adesso vorrei concentrarmi sulla vicenda Mediaset, allargando anche lo scenario, e poi passare al Monte dei Paschi. Allora, gli scenari in questo momento sono: Fininvest, famiglia Berlusconi vicina al 40%, Vivendi, ossia Bolloré, al 20%. Vedremo se verranno confermate le ipotesi di un patto, in realtà, che potrebbe portare la famiglia Berlusconi, cioè Fininvest, a salire di un altro 10% utilizzando strumenti derivati e sterilizzando i diritti di voto senza aver bisogno di lanciare un'OPA. Però, diciamo, mettiamo anche che questo sia vero, che Fininvest possa arrivare al 48%. Questo vorrebbe dire, per Bolloré, rendere più difficile il lancio di un'OPA, ma non cambierebbe lo scenario, perché tu ormai, Bolloré, seduto nel consiglio di amministrazione con un quinto almeno delle seggiole, ce l'hai, perché il 20% l'ha già acquisito. E al di là della Procura di Milano. Senatore Massimo Mucchetti, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Mucchetti, lei, lo ricordo a tutti, è stato per anni anche una firma importante del Gruppo Espresso, conosce benissimo le dinamiche dell'economia e della finanza, del Corriere della Sera, sto arrivando ragazzi, con calma, Mucchetti, e conosce benissimo i temi dell'economia e della finanza. La premessa breve per dirle questo: come si fa a sostenere, non da un punto di vista politico e quindi del ruolo che i media hanno, ci mancherebbe, anche nel raccontare il dibattito politico, nel ruolo che il presidente di Mediaset ha dentro Forza Italia, di cui è presidente, ma come si fa a sostenere da un punto di vista economico che Mediaset è strategica, quando negli anni, e lei su questo ha scritto anche un libro, almeno un libro se non ricordo male, negli anni Telecom Italia, Omnitel, Wind sono andate tranquillamente agli stranieri, nel senso, adesso Telecom è a controllo di Bolloré col 24%. Ora, tra le telecomunicazioni su cui navigano i dati e hanno l'archivio e network televisivo, per quanto importante, come si fa a dire che quello è strategico? Ma allora, intanto l'aggettivo strategico è un aggettivo che viene usato, come dire, ad libitum, no? Quando non sai, diciamo, vuoi dire che una certa società non deve passare di mano, usi l'aggettivo strategico. È stato usato anche per la Parmalat, senza successo, ma venne usato. E devo dire, con questo non è che voglio fare un torto, una critica, perché ricorderò che in Francia, quando gli Agnelli negli anni 90 dettero la scalata all'Exor, certo, che era una società francese, come qualcuno dovrebbe pur ricordare, il governo francese fece in modo che la scalata non andasse a buon fine, se non dopo che l'Exor avesse ceduto, come in effetti cedette, il gruppo di acque minerali Perrier Evian al gruppo BSN Gervais Danone, no? Perché? Perché si riteneva che l'acqua minerale Perrier fosse strategica per la Francia. Quindi questo lo dico per dire che l'aggettivo strategico è un aggettivo à la carte, no? Si usa quando si ritiene di doverlo usare, ma non è che c'è una regola aurea nel mondo che stabilisce che cosa deve essere conservato in mani nazionali e che cosa invece può essere ceduto in mani estere, perché di questo stiamo parlando. L'aggettivo strategico non vuol dire niente, secondo me. La domanda quindi... Allora, se non è strategico però, mi scusi, allora entriamo in un'altra categoria, Mucchetti. Cioè, è una società privata, io non tifo né per Bolloré né per la famiglia Berlusconi, non mi interessa nulla, nel senso... Ma, dico, è una società privata, abbiamo visto, nel senso, Bolloré è salito tranquillamente in Telecom Italia al 24%, io non ricordo, diciamo, levate di scudi, anche, suoniamo giustamente, a quel punto è un soggetto privato, però Telecom Italia è l'ex monopolista, l'incumbent, insomma, è quella che... Ora... Lei mi dice, se c'è una società che in paragone tra Telecom Italia e Mediaset, una società a cui il governo italiano dovrebbe dare un'occhiata e tenerla in mani nazionali, questa è Telecom più di Mediaset, questo è quello poteva che essere dire. Telecom, io poteva essere, in teoria, no? Cioè, io vorrei capire come la politica è... perché il governo è subito intervenuto, sia la dichiarazione del primo ministro Gentiloni sia del ministro Calenda, dicendo insomma non amiamo le scorribande, non apprezziamo le OPA ostili. Il sospetto qual è, Mucchetti? Che alla fine il peso di Mediaset sia più il peso politico che interessa governo e Parlamento che non il peso dal punto di vista economico, strategico e quindi la parte industriale di Mediaset. Ma allora anche qui bisogna essere, come dire pane al pane e vino al vino, no? Se Mediaset piuttosto che il Corriere della Sera o Repubblica finisse in mano a un grande gruppo tedesco vicino alla Merkel, e l'Italia si trovasse in un contenzioso politico in sede europea con la Germania, saremmo contenti noi di avere il primo quotidiano italiano, la prima rete o la seconda quotidiana, la seconda rete televisiva che avendo una certa proprietà fa nel tifo per la Germania? Probabilmente no. Accade che lei va in Germania e dà la scalata a un grande gruppo editoriale tedesco senza che succeda qualcosa. Berlusconi in Francia cercò di costruire una rete, si ricorderà sempre, sì, no? la Senca. E venne fatto fuori dal sistema francese. In Spagna esistono, dove Berlusconi ha Telecinco, è una cosa importante, però ci sono dei seri vincoli. Sì, però, Mucchetti, mi scusi, lei sa benissimo che in Spagna il Corriere, ahimè, perché fu un'operazione insomma che costò parecchio, prese Recoletos. Visto che lei citava, lei citava la Spagna, in Spagna una fregatura leggendaria. Ho capito, però la prese. E gliela lasciarono prendere, ma Recoletos è un gruppo poco significativo. Semmai è più interessante parlare di El Mundo. È Repubblica a El Mundo. Ma io voglio anche dire una cosa, visto che parliamo della Spagna. Endesa, cioè il primo gruppo elettrico spagnolo, è di proprietà dell'Enel. Ora l'elettricità sarà più strategica, visto che diciamo, ci sono le fonti di approvvigionamento. Mi perdoni, ma non lo deve chiedere a me. Io ho fatto delle dichiarazioni nelle quali dico che se Bolloré ha rispettato le regole borsistiche, quindi non ha fatto aggiotaggio, non ha fatto manipolazioni di mercato, sta esercitando un suo diritto nel comprare le azioni. Quindi se lei vuole chiedere a me di interpretare il governo, come dire, non va dalla persona giusta, lo deve chiedere al governo. Io non sono il governo, io presiedo una commissione industria del Senato che ha la competenza come l'omologa commissione della Camera della concorrenza, della tutela delle regole della concorrenza. In queste regole c'è anche che scalate in borsa, se vengono effettuate rispettando le regole, sono legittime. Il fatto di essere ostili non le rende illegittime, le qualifica come scalate non concordate con il consiglio di amministrazione della società Target. Non più di questo. Noi abbiamo una legge che il testo unico della finanza, altrimenti conosciuto come legge Draghi e successive modificazioni, che consente le scalate ostili, per essere precisi. Allora, se il governo intende contrastare le cose col loro nome, una scalata ostile nel settore dei media, si prendono i provvedimenti giuridici. No, ma io seguo il suo ragionamento. Cioè, allo scopo. Certo, no? Io seguo il suo ragionamento. È la prima volta che sento dire che il settore dei media è strategico. Magari a noi può anche far piacere. Cioè, da dire che non puoi comprarti un giornale di rilievo nazionale o un network televisivo con le news o una radio o news, non puoi comprartela come se compreresti un'altra attività manifatturiera, perché lì c'è un interesse nazionale anche nel diffondere le notizie. E se tu... Allora, io torno a dire, le posizioni del governo, le giustifiche del governo. Sì, sì, se certo. Le chiede cosa ne penso, sì, io, sì, certo. Che è più preciso, no? Io le dico che il settore dei media è un settore che è sottoposto a una regolazione doppia, cioè questo dal punto di vista giuridico, queste sono le regole del gioco già in essa, è sottoposto sia alle regole diciamo generali che tutelano e promuovono la concorrenza, quindi le leggi antitrust, quindi, sia a regole specifiche che per esempio per lungo tempo hanno proibito, hanno reso difficile diciamo così l'intreccio fra quotidiani, TV e telecomunicazioni, ponendo dei limiti e così, certo. Sia a una regola più generale che ha una propria giustificazione politica, che è la tutela e la promozione del cosiddetto pluralismo, che è qualcosa di più della concorrenza, perché si ritiene che siccome l'industria dell'informazione crea le basi su cui si forma l'opinione pubblica, la quale opinione pubblica si manifesta nel voto, durante le elezioni, nel voto, se ci fosse un soggetto che è padrone dei tre quarti dell'informazione, certo, questo soggetto sarebbe in grado di manipolare l'esito del voto e quindi ci sarebbe un pericolo per la democrazia. Questo soggetto potrebbe in teoria arrivare a quella posizione di predominio nel settore dei media, come dire, agendo sul piano economico, comprando, sviluppandosi, facendo, brigando, quindi tutto bene, però siccome qui stiamo parlando di informazione e non di bottiglie di vino o bottiglie di latte, in questo caso vi è un'esigenza di pluralismo che fa premio sul diritto di esercizio della proprietà privata dei titoli negoziabili in borsa, e questo a me sembra sano, perché la democrazia è più importante dell'economia. Non c'è dubbio. E questo mondo ha ancora la testa sulle spalle. Mm-hmm. Guardi, Mucchetti, perché io su poi questo, quando l'economia si incricca, guardi, è successo qualche tempo fa, no, sorrido, va sempre con le mutande in mano a chiedere il soccorso allo Stato. Allo Stato. Allora, Mucchetti, ho letto anch'io il suo libro famoso sui capitalisti di casa nostra, però io sono d'accordissimo con lei, tranne che mi viene da sorridere, perché noi facciamo questo discorso che da un punto di vista della teoria è assolutamente corretto, cioè tu non puoi trattare, tant'è che esiste legge Gasparri nella concentrazione dei media e quant'altro, esistono delle leggi ad hoc, è un settore molto regolato, come si dice in gergo, perché non puoi avere posizioni dominanti, perché appunto formano l'opinione dell'elettorato che poi va a votare, esercita la sua funzione democratica, quindi non è come produrre yogurt o vino. Sono d'accordissimo con lei. Mi faccia fare la battuta prima di chiedere un'ultima cosa su Monte dei Paschi. Sembrerà strano all'estero che lo diciamo noi, che abbiamo avuto un conflitto di interessi enorme in cui, sì, è vero, tutto quello che lei ha appena detto, poi il Presidente del Consiglio era anche proprietario di uno dei due gruppi dell'informazione, quindi su questo mi chiedo come all'estero ci possono prendere sul serio, se posso. Beh, non abbiamo mai fatto una vera legge sul conflitto di interessi, tutto qua. La sposo pienamente, ho presentato un disegno di legge di inizio legislatura sul conflitto di interessi di natura economica, per rendere non diciamo incompatibile la funzione di parlamentare, a fortiori quella di ministro, con chi fosse azionista di riferimento e non soltanto esponente aziendale di società concessionarie dello Stato o comunque in rapporti economici fondamentali con lo Stato, col governo. No, no, ma lo so benissimo la sua posizione. Però purtroppo la media della politica è... ha dato in Italia il risultato. No, è che molti ascoltatori mi scrivono anche venire un po' da ridere. Sì, esatto, molti mi scrivono: beh, vedi, chi di conflitto ferisce, di conflitto perisce, perché adesso improvvisamente scopriamo il tema giustissimo del controllo dei media relativamente al formarsi dell'opinione pubblica e dell'opinione politica per esercitare il diritto di voto. Diciamo, abbiamo avuto, lo dico con massimo rispetto, un Presidente del Consiglio che non si è mai liberato delle sue azioni, della sua società, mentre il Presidente del Consiglio, che è il gruppo attualmente che noi, su cui noi ragioniamo, cioè Mediaset, per difendere il pluralismo. Siamo un paese bellissimo, Mucchetti. Detto questo, niente da contestare sul principio, ci mancherebbe, faccio giornalista come l'ho fatto anche lei. Mi dice solo una cosa invece sul Monte dei Paschi, perché poi devo andare su Meteo Pubblicità e la saluto. A questo, così, quasi da collega, secondo lei a questo punto l'ingresso dello Stato è quasi scontato? L'ingresso dello Stato, al punto in cui sono giunte le cose, mi sembra il male minore. Naturalmente ci sono un sacco di problemi, perché arriva tardi, arriva male, arriva sull'onda di una incapacità del governo di fare le scelte giuste al momento giusto. E comunque, siccome qui siamo, probabilmente sarà inevitabile. Bisogna domandarsi, tuttavia, se questo intervento debba essere un intervento prolungato nel tempo o se non possa essere magari recuperato, sottoponendo finalmente a una verifica seria il cosiddetto piano Passera, se non possa essere un ponte verso in attesa di nuovi... una veloce riprivatizzazione del Monte dei Paschi. Cioè le dice fare garantire... Lo dice uno che non è mai stato, come dire, un fanatico delle privatizzazioni. Per cui, però io trovo che il Consiglio di amministrazione uscente e l'amministratore delegato e il governo italiano che l'ha scelto, nel momento in cui non riescono a portare a compimento il cosiddetto piano JP Morgan, beh, forse il capo di cenere se lo devono ben cospargere e tirare le necessarie conseguenze, perché che quel piano fosse un piano poco serio e molto costoso, questo qualcuno l'aveva detto all'indomani della sua presentazione. Beh, l'aveva detto Fabrizio Viola, che ha detto che poi fu chiamato da Padoan per farsi, su richiesta di Renzi e di JP Morgan, perché si dimettesse, e Viola ha sempre chiarito che lui non voleva pagare il 9% di commissione a JP Morgan. Per esempio, adesso leggo un'agenzia che dice che le banche che assistono Monte dei Paschi nell'aumento di capitale da 5 miliardi riceveranno i compensi potuiti solo ed esclusivamente in caso di completo successo dell'operazione. Cioè, allora, il si chiama success fee. Morgan, come ha detto la stessa banca su richiesta della Consob, perché di suo non lo voleva dire, costerebbe 648 milioni alla banca e 2 miliardi e 700 milioni al veicolo che avrebbe dovuto acquistare i crediti in sofferenza. Tutto questo è valore comunque sottratto alla banca, perché il veicolo per pagare quei prezzi, no, quei costi, sopportare quei costi, guadagnicchiare qualcosa, deve recuperare questi denari nel prezzo di acquisto del crediti in sofferenza, come è evidente. La proposta Passera è radicalmente diversa. Mi stupisco, resto ancora stupito del fatto che non sia stata sottoposta ad adeguata verifica. Questo per me rimane uno dei misteri gloriosi. No, non tanto gloriosi, l'intera vicenda non è così gloriosa, perché tu cacci un amministratore delegato per un piano... con grandi virgolette e pesanti. Ma lei le usa le virgolette, noi meno, nel senso che non le troviamo sulla tastiera. Insomma, cacci Fabrizio Viola, nessun rapporto con Fabrizio Viola, però per far arrivare benissimo Morelli, dopo l'accordo con Jamie Dimon nell'incontro con l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, allora ti aspetti che quantomeno, vista la fretta nel cacciarlo, ti aspetti che il piano sia un piano blindatissimo, che va in porto. Invece siamo ancora qua a vedere, boh, funzionerà, non funzionerà, dopo il referendum. Quello che è certo sono i compensi complessivi per le banche, che ammontano a 450 milioni. Adesso scopriamo però con la cosiddetta success fee, cioè se l'operazione va in porto li prendi, se no no, almeno quello. Lei dice però se l'operazione dovesse andare in porto traessero le conseguenze i nuovi vertici, perché tu sei arrivato per fare questa operazione, l'operazione non va in porto, deve entrare lo Stato. Beh, a sto punto non devo dire io cosa dovrebbe capitare, ma magari, insomma, visto che i banchieri su questo sono... fanno orecchie da banchiere, magari devi anche prendere atto che hai fallito il tuo progetto, la tua operazione. Continuiamo a essere, diciamo, il programma più amato dalle banche e dai banchieri, soprattutto di questo paese. Grazie a Massimo Mucchetti. Devo dare meteo, pubblicità, traffico, tutto assieme, vai. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Hai mandato in stampa il foglio? Sì, mezz'ora fa. Mezz'ora fa? Sta uscendo adesso. È ora di cambiare il parco stampanti della tua azienda? HP ha la soluzione per te. Con HP Trade-in, il programma di supervalutazione dell'usato, puoi acquistare una nuova stampante e restituire la tua usata di qualsiasi marca o modello, ritirata da HP ovunque in Italia e valutata fino a 700 euro. Per info vai su hp.com/it/supervalutazione. È Natale ogni volta che un bambino sta meglio. Fai una donazione all'ospedale pediatrico Meyer. Scopri come su fondazionemeyer.it. Gestisci i tuoi investimenti con Robobox, la prima piattaforma italiana di RoboAdvisor. Scoprila su onlinesim.it. Capra o cavoli? Con Corsa Bicolor non devi rinunciare a nulla. Fari a LED, cerchi in lega, radio Bluetooth, cruise control, sterzo city mode, black pack. Opel Corsa Bicolor, tutto il meglio di serie a 9.950 euro. In più a dicembre, prezzi bloccati. Presto autista, segua quel veicolo. Ma per chi mi ha preso? Per Visiran? Controlla, gestisci e segui la tua flotta in tempo reale comodamente dal tuo PC, tablet o smartphone. Con Visiran, a partire da soli 19 euro al mese, potrai gestire i tuoi veicoli sulle mappe, prevenire furti di carburante, controllare le ore di guida, comunicare direttamente con gli autisti e tanto altro ancora. Vuoi saperne di più? Vai su visiran.it per una prova gratuita. Visiran, se non vedi non sai, se non provi non capisci. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, oggi sballati tutti i blocchi, come si dice in gergo, adesso manderò anche il traffico, però do la chiusura di borsa e poi parliamo del Monte dei Paschi, media 7-1,55, Campari meno 0,27, due titoli negativi, bene Banco Popolare più 9,5%. Per cento, molto forte anche la Popolare di Milano più 8,56%. Per quello che riguarda tutte le banche italiane oggi sono in netto rispolvero, più 6,40 Unicredit, più 5,90 Ubibanca, più 3,40 Intesa San Paolo e poi appunto il Monte dei Paschi più 3%, guadagna il 3,30 anche Mediobanca e 2,90 Unipol. Bene, al di là del fronte bancario, Buzzi Unicem più 4,38%, Fiat Chrysler più 4% dopo i dati sulle matricolazioni europee, Telecom Italia più 3,60%. Ancora devo dire che chiudiamo con chi ha guadagnato come Ferrari il 2,60%, Italgas il 2,90%, Generali il 2,5% come CNH Industrial, Exor più 2,5%, Ferragamo più 2,2%, Poste più 2%. Migliori e peggiori, Italia Independent continua a correre in questi giorni più 17%, BOM Italia più 11%, Banco Popolare appunto più 9,5%. Fronte opposto, CT Biofarma meno 6, Uniper meno 5, Digitouch meno 4%. Traffico, poi iniziamo col Monte. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Allora, ogni tanto va così, qualcuno mi chiede se io preferisco Bolloré a Berlusconi. No, guardi, non posso mandare Rigoletto, ma si ricorda l'aria, questo, quella, per me Parisson, non mi interessa nulla, dico semplicemente, facciamo dei ragionamenti, nella teoria sono d'accordo con Massimo Mucchetti, nella pratica non dimentichiamoci che noi siamo per il resto del mondo il paese che su il conflitto di interessi tra politica e media ci ha campato. Comunque, Luca Davi, Monte dei Paschi di Siena. Intanto la notizia di oggi, poi dopo il GR andremo all'analisi e ai problemi. La banca ha autorizzato sostanzialmente il via libera all'aumento di capitale da 5 miliardi e quindi siamo in attesa del via libera della Consob, sia al prospetto che è rivolto al retail, sia a questa attesa conversione dei bond subordinati appunto in mano ai piccoli risparmiatori. Se tutto andrà bene, come ci si aspetta, da domani, settimana prossima, inizierà questa trasformazione appunto dei bond subordinati in azioni in mano ai piccoli risparmiatori e nel frattempo si cercherà di portare a casa il più possibile sul mercato. Ecco, insomma, se tutto andrà bene per il Monte, non per i 40.000 risparmiatori che si vedranno convertire con ogni probabilità le obbligazioni in volontariamente o forzosamente. Nel secondo caso, nel caso dovesse essere una convenzione forzosa, e poi ne parleremo. Nel secondo caso si vedrà come lo Stato interverrà eventualmente per ristorare parzialmente almeno io. E di questo parliamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Verona Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. I wanna be free. 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Luca Davi, il tema del Monte dei Paschi. Molti ascoltatori ci dicono: ma perché la Consob dovrebbe dare l'ok alla conversione anche per 40.000 risparmiatori della famosa obbligazione, si chiama, è un bond, obbligazione subordinata Upper Tier 2 2008-2018, che vale 2 miliardi di euro e fu collocata ai 40.000 risparmiatori per trovare i soldi per acquisire la famosa Antonveneta, la madre di tutti i problemi per il Monte dei Paschi. Ma perché la dicono, insomma, il profilo di rischio, il punto che però vedo io è che la Consob a suo tempo diede l'ok al Monte dei Paschi per collocare questa obbligazione subordinata ai risparmiatori. Come fa adesso a dire no, non puoi convertirla in azioni, perché il profilo di rischio, i risparmiatori non l'hanno capito, se tu avevi autorizzato a collocarla a suo tempo? Tutte osservazioni giustissime. Tra l'altro, ricordiamolo, questo bond servì per fare la famigerata scalata poi ad Antonveneta, quindi, come dire, la madre un po' di tutti i problemi. Probabilmente adesso vedremo cosa succederà e come la Consob giustificherà eventualmente questa mossa. Sicuramente no, è una decisione sofferta, questo è un po' quello che sembra di poter capire. Probabilmente lo giustificherà dicendo sostanzialmente che l'alternativa sarebbe peggiore, nel senso lasciare o impedire la possibilità ai risparmiatori di procedere con una conversione volontaria a premio rispetto alle quotazioni attuali di questi bond probabilmente rappresenterebbe un danno superiore rispetto a quello di non consentirlo. Ecco, questa è un'ipotesi, è una possibilità, lo vedremo. Diciamo anche che dall'altra parte è quello che si chiama dilemma del prigioniero, cioè non farlo probabilmente comunque creerebbe dei problemi, farlo ne presenterebbe altri. È difficile riuscire a trovare una soluzione definitiva. Certo è che, da quello che si intuisce, insomma, è che probabilmente comunque non si arriverà mai a convertire tutti i bond a disposizione. Questi 2 miliardi difficilmente arriveranno, anche perché i tempi sono troppo stretti, è troppo difficile sollecitare 40.000 persone. 40.000 risparmiatori che da qua il 31 dicembre. Ma non hanno... stiamo parlando prima di Natale, sì, quindi prima di Natale, 23 di dicembre al più tardi. In questa ultima settimana, invece che fare gli acquisti di Natale, se ce la fanno così, si occupano di capire se vogliono volontariamente o no convertire l'obbligazione. Stiamo pazziando, come dicono a Napoli. Detto questo, molto improbabile, ed è anche per questo infatti che a Roma si sta già pensando sostanzialmente al piano B, al piano B che prevede inevitabilmente una rete di protezione. Che cosa deve fare lo Stato a quel punto? Deve dare il cosiddetto ristoro, ossia andare a mitigare le perdite, per essere ancora più chiari, con i risparmiatori, con i clienti. Non lo fa con gli istituzionali. Poi lì partirebbe tutto il percorso, ma quanti erano veramente coscienti del rischio che stavano assumendo? Perché alcuni, immagino, abbiano comprato l'obbligazione anche dicendo vabbè, c'è un rischio, ma è un rischio. Altri invece probabilmente non erano consapevoli del rischio. Diciamo anche che lì ci sarà da capire chi ha comprato sul primario e quindi allo sportello, per capirci, di MPS, chi invece ha fatto un'operazione speculativa ed è andato a comprarlo successivamente. E poi anche successivamente, chi ha beccato diciamo, dei guadagni, chi ha avuto dei guadagni in questi anni, come certo. Lo contabilizziamo. Allora, no, gli aiuti di Stato per le banche, no, l'abbiamo spiegato molte volte, me lo chiedono gli ascoltatori, non sono del tutto esclusi dalla direttiva sul bail-in, perché si dice che, è una norma nuova, ma comunque si dice che in caso di rischio sistemico sul sistema bancario della banca si può procedere all'intervento dello Stato, quindi bail-in lo esclude in generale, ma non nei casi in cui ci sia un rischio sistemico. Beh, questo è il caso, perché insomma, e soprattutto in caso precauzionale, come nel caso di MPS, per le banche che non hanno superato gli stress test. Esatto. MPS è l'unica banca in Europa che non, ecco, ha visto che poi tutto il problema di Monte dei Paschi e anche in parte quello di UniCredit, che ha un altro film, è un altro film, però nasce dalla richiesta della Banca Centrale Europea di avere altri 5 miliardi di patrimonio, quindi di aumento di capitale, per far fronte alle svalutazioni che Monte dei Paschi deve fare per i prestiti che è ancora in pancia, ma che sono ormai in sofferenza, sono non performing loans, e stiamo parlando di una cifra che, se non ricordo male, è sui 27 miliardi e mezzo. Concentriamoci un secondo sul mercato italiano degli NPL. Praticamente, se quest'anno vi sarà l'operazione, arriveremo a 43 miliardi di cessioni, 18 miliardi li ha ceduto il sistema bancario nel 2015, Nel 2017 la stima fatta da PricewaterhouseCoopers è di arrivare addirittura a 50 miliardi. Siamo in collegamento con Fedele Pascuzzi, che è uno dei curatori del rapporto diffuso oggi, partner di PricewaterhouseCoopers. Buonasera Pascuzzi. Salve dottor Barisoni. Allora, voi stimate che si vada a un livello, diciamo, a almeno doppio, quasi triplo rispetto al 2015 e più alto anche rispetto al 2016 di cessioni di non performing loans, di sofferenze bancarie, tutte attraverso la cartolarizzazione, e cioè tu prendi queste sofferenze, le impacchetti, le vendi cercando di venderle a un valore il più vicino possibile a quello che hai scritto a bilancio, a un soggetto terzo che poi sulla differenza tra quanto le ha comprate a te, poni che io debba 1000 euro alla mia banca, non glieli posso ridare, la mia banca li ha in bilancio a 400, che spera ancora che 400 di averli, li vende a un soggetto terzo a 300 e il soggetto terzo cerca di guadagnarci recuperando almeno 320-330. Spiego il meccanismo della cartolarizzazione. Voi ritenete che tutte saranno cartolarizzazioni? Allora, le cessioni di portafoglio sicuramente saranno fatte tramite cartolarizzazioni. Poi le cartolarizzazioni possono essere assistite da GACS, che è la garanzia dello Stato, credo nota a tutti gli ascoltatori, sì, oppure senza la GACS. Però le cessioni di portafoglio è anche fiscalmente efficiente che avvengano tramite delle cartolarizzazioni, che è uno strumento che poi viene utilizzato per diverse modalità, per diverse finalità e con diverse modalità, sì. E voi ritenete, perché appunto non è cederli queste sofferenze, il problema è a quanto le cedi, nel senso che, ripeto, se le banche le hanno in bilancio a 40, a 400 i miei 1000 euro, è ovvio che non hanno problemi a trovare qualcuno che gliele compri a 200, ma poi devono svalutare della metà quello che hanno a bilancio, cioè i miei 400 euro non sono più 400 euro, sono 200 euro, quindi cercano di venderli più vicino possibile al livello a cui li hanno iscritti. Secondo lei si arriverà a un punto mediano o alla fine chi ha il coltello dalla parte del manico sono i fondi, alcuni li chiamano avvoltoio, che vanno a comprare queste sofferenze per poi guadagnarci sulla differenza? Ma guardi, chi ha ceduto negli ultimi due anni, la maggior parte di quelli che hanno ceduto hanno dovuto poi registrare una perdita ulteriore rispetto agli accantonamenti. Devo dire che la situazione sta progressivamente cambiando, cioè se la maggior parte delle banche seguiranno la direzione che ha annunciato Unicredit ieri, a quel punto i prezzi saranno molto vicini ai valori di bilancio. Poi ovviamente non tutte le banche avranno la forza per avere un livello di accantonamenti pari a quello di Unicredit, ma le principali banche, escluso il tema di Montepaschi che è una storia a sé, direi che tenderanno, come sempre hanno fatto, a seguire poi le indicazioni del best in class. Un'ultima domanda, mi scusi, qui sul fronte delle sofferenze, cioè dei crediti che le banche non possono più avere indietro, stiamo ragionando dell'ammontare che si è generato in questi anni o da quello che vedete c'è comunque una generazione preoccupante anche in corso? Voglio dire, stiamo ragionando sul collocare prestiti effettuati negli anni scorsi, che ormai si è capito che non torneranno più indietro, o si stanno continuando a sviluppare nuove sofferenze in maniera preoccupante, chiaro che un po' se ne sviluppano nel sistema anche in questi ultimi mesi. Sì, esatto, le sofferenze sono uno scarto di lavorazione dell'attività bancaria, sì, quindi insomma, si svilupperanno sempre. C'è un tasso fisiologico di persone che non riescono a ripagare il prestito. Direi la cosa importante è che sulla semestrale 2016 le prime 10 banche hanno per la prima volta da 10 anni registrato un decremento dell'ammontare totale sia delle sofferenze sia del totale non performing exposure, che è la nuova denominazione dei crediti problematici, che include oltre alle sofferenze anche gli unlikely to pay e i past due, cioè che è sostanzialmente la categoria alla quale si riferisce BCE. Per la prima volta da 10 anni a questa parte questo ammontare è diminuito per una serie di fattori, tra cui anche una decelerazione del tasso di passaggio da in bonis a categorie problematiche, cioè, quindi diciamo c'è stato un rallentamento delle nuove, adesso lo devo spiegare a tutte perché sai con gli inglesismi andiamo poco distante, ma c'è stato un rallentamento nello svilupparsi di nuove sofferenze. Un tasso fisiologico c'è sempre, non è che tutti i soldi che presti ti tornano indietro, diciamo, per la prima volta l'ammontare totale, la torta totale non ha continuato a crescere, ho capito bene? È decresciuto, assolutamente. A livello di sistema è decresciuto di 10 miliardi il totale dei crediti problematici e di 3 miliardi le sofferenze vere e proprie. Le vuole chiedere... è un po' come se il primo vagone, diciamo, di questo treno difficoltoso, se il primo vagone inizia a decrescere o comunque a rallentare, beh, insomma, un po' tutto il treno tenderà un pochettino a frenare. Questo è un buon segnale, quantomeno, no? È un buon segnale. Poi ci sono degli altri segnali positivi che ancora non si sono, come dire, dispiegati in tutti i loro effetti, che è una parziale ripresa del mercato immobiliare che ha un diretto influsso sull'ammontare dei crediti in sofferenza. Sì, poi... questo va spiegato, cioè le banche in garanzia prendono gli immobili, diciamo, la dico brutalmente, se aumenta il valore degli immobili è chiaro che il valore della tua garanzia aumenta allo stesso tempo e quindi la sofferenza, ossia quelli, i soldi che non ti riesco a dare, diminuisce come quota, perché avendo io avuto magari spesso impegno un immobile residenziale o un capannone, un immobile di uso industriale, si riduce quello che non ti riesco a ridare avendo impegno l'immobile. Sì, a dire la verità il prezzo non si sono ancora visti significativi incrementi, ma quello che si è incrementato in maniera molto significativa è il numero di transazioni, che vuol dire maggiore liquidità sul mercato. Anche delle, e quindi, sì, perché non c'è solo il valore dell'immobile, è anche chi, quando poi qualcuno effettivamente te lo compra sto immobile, e quindi noi abbiamo visto prezzi nel mercato immobiliare ancora fermi, ma un aumento forte delle cosiddette compravendite, cioè si vende, si compra più velocemente con tempi ridotti e in misura maggiore, che di solito porta anche alla fine a un aumento del prezzo del valore al metro quadro dell'immobile stesso. Grazie anche perché ci interessava capire all'interno del rapporto, il rallentamento delle sofferenze è importante, perché non è che possiamo vivere tutta la vita a smaltire sofferenze. Luca, brevissimo. Una sola riflessione: ciò che ha fatto Unicredit sulle proprie sofferenze è un'operazione monster, ha portato il livello di accantonamenti dal 60 al 75%, vuol dire ridurre, abbattere il valore dei propri crediti dal 40 sostanzialmente al 25%. Non è detto che tutte le banche debbano per forza seguire questa strada, lo vedremo insomma nel corso delle prossime trimestri, vedremo cosa faranno le altre banche. Questo certo è un timore del mercato, questo è vero. Unicredit l'ha potuto fare perché ha chiesto un aumento di capitale da 13 miliardi e quindi si può permettere, forse così l'ha anche giustificato in qualche modo, esatto, e si può permettere di contabilizzare le sofferenze con una perdita anche significativa. E del resto questo qua si inserisce forse che Francoforte stessa voleva un'operazione grande per la principale banca italiana, una delle due principali banche italiane, così non facciamo torto Intesa San Paolo. Grazie anche a Federico Pascuzzi, grazie a Luca Davi, traffico, e poi a quel punto andiamo su chi questi problemi non li ha, gli Stati Uniti, che hanno un'economia che cresce così tanto e così bene che Janet Yellen nell'alzare i tassi ieri ha annunciato che lo farà almeno altre tre volte nel 2017. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. The Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate. Il Federal Open Market Committee ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli tra lo 0,50 e lo 0,75%. Con questa decisione, io e i miei colleghi abbiamo riconosciuto il progresso significativo compiuto dall'economia nel raggiungere gli obiettivi di massima occupazione e di stabilità dei prezzi. Nell'ultimo anno, la disoccupazione è ulteriormente scesa e l'inflazione si è mossa verso l'obiettivo di lungo termine, ossia il 2%. Ci attendiamo che l'economia continui a fare bene, con il mercato del lavoro che si rafforzerà ancora e l'inflazione che salirà al 2% nel giro dei prossimi due anni. La crescita economica ha avuto un'accelerazione da metà anno e ci aspettiamo che cresca a ritmo moderato nei prossimi anni. Negli ultimi 7 anni, oltre 15 milioni di posti di lavoro sono stati creati. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,6% in novembre, il livello più basso dal 2007, precedente la recessione. Guardando avanti, ci aspettiamo che le condizioni del mercato del lavoro si rafforzeranno ulteriormente. Quindi scenario positivo per l'economia a stelle strisce, la Fed alza i tassi, lo farà probabilmente altre tre volte nel 2017. Tutti guardavano però quello che avrebbe detto Janet Yellen sul suo rapporto con Donald Trump, e allora la linea va a Mario Platero in collegamento con noi da New York, dove è corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. Allora, mi sembra che lei abbia detto resto per tutto il mio mandato e insomma non ho... non do certo consigli a Trump, getta acqua sul fuoco. Sì, beh, non può essere sostituita la Yellen, a meno che non decida lei di andarsene, e ha chiarito che lei non se ne andrà. In qualche modo resta un piccolo check su quello che possono essere le politiche di Trump o le nomine di Trump, perché poi toccherà comunque a lui nominare il prossimo governatore della Federal Reserve e dunque scegliere qualcuno che sia in sintonia con le sue politiche. Ma credo che a questo punto la Yellen si è mossa da quella che poteva essere una politica miope, cioè quella di non procedere con questo rialzo dei tassi di interesse. Sta anche in qualche modo scontando il fatto che proprio con l'arrivo dell'amministrazione Trump ci sarà un incremento della spesa pubblica. Sappiamo che Trump vuole ridurre enormemente le tasse, vuole spingere con le spese infrastrutturali, ha creato dei meccanismi che dovrebbero rendere queste spese neutre, però poi fino a quando questo non si verifica non lo potremo sapere. Questo per dire che cosa? Che l'arrivo di Trump presuppone anche un possibile aumento del tasso di inflazione e dunque a questo punto la Yellen deve accelerare. Per questo i tre aumenti annunciati nel corso del prossimo anno, che credo questa volta resteranno, non credo che si farà come capitò poi nel 2015 quando ci fu il primo aumento dei tassi di interesse modestissimo con promessa di ulteriori aumenti che poi non sono mai venuti, perché ci fu la crisi cinese, ci fu la crisi delle borse, insomma ci fu un momento piuttosto delicato. Ecco, è una svolta storica questa, perché io credo che adesso abbiamo chiuso davvero con quello che è stato il periodo più lungo nella storia americana di una politica monetaria che ha tenuto i tassi vicino allo zero per quasi 8 anni consecutivi. Lo sapevamo, era stato annunciato, ce lo aspettavamo, eppure quando poi succede, beh, è la pietra miliare, è quella che ricorderemo in futuro dovendo fare un riferimento a questo. E ti dirò che l'annuncio dell'aumento per 3 volte l'anno prossimo in qualche modo ha colto un filo di sorpresa ai mercati. Abbiamo avuto un dollaro che si è subito rafforzato e i rendimenti obbligazionari che sono saliti. Insomma, caro Sebastiano, a questo punto credo che il trend è cambiato. Sì, è cambiato e devo dire che allora, per noi è un vantaggio avere l'euro più debole per le esportazioni. È un vantaggio minore perché ci paghiamo il petrolio e tutta l'energia, e devo dire che comunque i tassi americani che iniziano a salire e il petrolio che è stabilmente su $50 iniziano a delineare uno scenario diverso. In Europa i tassi resteranno bassi a lungo, Mario Draghi lo ha spiegato molte volte, il petrolio a $50 non è ancora preoccupante come quando era 80, però il periodo, diciamo, che abbiamo chiamato della tempesta perfetta positiva, e quindi tassi a zero, euro in indebolimento, ma anche petrolio debole, sta lentamente terminando o inizia, diciamo, a terminare. Vedo che nel frattempo invece l'Unione Europea ha esteso le sanzioni alla Russia di altri 6 mesi, lì però insomma il boccino ce l'ha in mano Tillerson, il nuovo segretario di Stato, ministro degli esteri americano, che è amico di Putin, ex numero uno dell'ExxonMobil, e che ha detto molte volte, insomma, che lui queste sanzioni non gli piacciono e vorrebbe sospendere. Intanto l'Europa però le proroga per altri 6 mesi nel settore energia, difesa e dei beni a duplice uso civile e militare, oltre che il settore finanziario. Grazie a Mario Platero in collegamento da New York, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi e torna anche la poco invidiabile classifica. Radio 24, libera la voglia di fare.